Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi in questa casa non è un albergo, sono circondata da uomini. Abbiamo in regia Paolo Corleoni, in assistenza Giorgio De Luca e il mio inquilino preferito, Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, allora oggi una puntata devo dire impegnativa, perché parliamo di malattia. Quando irrompe in una famiglia parliamo di una malattia importante, seria, che altera proprio anche gli equilibri e che ci costringe quindi a cambiare, a inventare una nuova vita. Alberto. Sì, credo che è un po' uno spettro che si muove anche nelle nostre fantasie un po' più angoscianti dei genitori. Quando guardiamo i nostri figli crescere, ogni tanto proprio consideriamo che la loro salute è effettivamente un dono, non abbiamo fatto nulla per riceverla, e poi a volte ci imbattiamo in altri papà, in altre mamme che hanno storie così faticose da raccontare, storie davvero impegnative, ma molte volte rimaniamo stupiti dal fatto che dentro a questa fatica, dentro a questa salita così pendente, poi i genitori sanno davvero tirare fuori risorse incredibili e stare vicino ai loro figli. 800 24 0024 se volete intervenire. Intanto vi presento Piercarlo Crespi, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Papà di Paolo, autore di un libro che ci è piaciuto molto, Vado a farmi la chemia e torno, Rizzoli Editore. In linea con noi abbiamo anche Enrica Baricco, buongiorno. Buongiorno a voi. Di Casa Oz. Esattamente, Casa Oz. Ecco, teniamoci qua, Casa Oz, ne parleremo, perché prima vogliamo ascoltare insieme un brano dal libro di Paolo Crespi che abbiamo appena citato, Vado a farmi la chemio e torno, e poi riflettiamo insieme. È il 30 luglio, sono le 8 del mattino e sto andando con papà al pronto soccorso di Tradate. Quando arriviamo un medico mi visita e mi prescrive una lastra e un'ecografia alla gamba. Spero di cavarmela in fretta, così potremo andare a far colazione al bar, croissant alla crema e una bella spremuta fresca. Invece alle 2 del pomeriggio siamo ancora lì. Papà comincia a innervosirsi e perde un po' le staffe. Dovrebbe andare al lavoro lui. Finalmente la dottoressa del reparto pediatria lo chiama e lo fa entrare in un ufficio. Io devo aspettare fuori. Quando esce, dopo qualche minuto, papà sembra molto preoccupato. Mi raggiunge e mi dice che domani dobbiamo andare a Milano, in un altro ospedale, per una visita speciale. Così, il giorno dopo, il 31 di luglio, siamo a Milano, all'Istituto Nazionale dei Tumori. Piercarlo, lei ci aiuterà a capire cosa succede ad un genitore a cui una diagnosi, direi all'improvviso, cambia la vita di tutta una famiglia. E in questo senso chiedo subito aiuto ai nostri ascoltatori se vogliono condividere con noi una loro storia, una storia che stanno vivendo, 824 0024, che hanno vissuto magari quando erano ragazzi. E potete come sempre scriverci al 349 238 6666. Piercarlo. Eccomi qua. Intanto Piercarlo, lei proprio stamattina alle 7.45 ci ha mandato un sms che diceva: giornata mitica quella di ieri al Quirinale, favolosa, siamo riusciti nel nostro intento a avvicinare il presidente Napoletano, consegnare il libro, scattare foto ricordo, fatto, obiettivo raggiunto. E partiamo proprio da questa conclusione, la vostra è una storia a lieto fine, ma l'inizio, così come raccontate nel libro, è stato proprio quello che chiameremo un fulmine a ciel sereno. Come sono andate le cose? Io, riascoltando il brano che avete letto, non posso fare altro che commuovermi un pochino, perché chiaramente ritorno in quei momenti. A un anno fa, quando purtroppo, appena tornati dalle vacanze, passate al mare, abbronzatissimi, felicissimi, ci siamo purtroppo trovati proiettati in un letto di ospedale nell'arco di 4 giorni. Fortunatamente, perché abbiamo avuto praticamente una diagnosi immediata dopo che Paolo segnalava da pochi giorni sostanzialmente dei dolori fortissimi alle ginocchia. Inizialmente si pensava alla crescita, ma poi tutto questo è esploso in un gonfiore molto sospetto, e fortunatamente, grazie all'ospedale di Tradate, abbiamo individuato immediatamente cosa poteva essere: un osteosarcoma, un tumore molto molto aggressivo, raro, colpisce un centinaio di ragazzi all'anno in Italia, e ci hanno indirizzato fortunatamente sulle strutture giuste di Milano, all'Int di Via Venezian, dove sono preparatissimi in questo tipo di osteosarcoma. Purtroppo abbiamo vissuto la vita, l'esperienza sostanzialmente di molte famiglie, di molti genitori, non siamo gli unici che purtroppo vivono queste brutte esperienze, ne abbiamo incontrati moltissimi. Piercarlo, andiamo a sentire Claudio che ci chiama dalla provincia di Pistoia e poi cerchiamo di capire il progetto di Casa Oz. Claudio, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Claudio? Dunque, diciamo, marzo prossimo, sono 3 anni, mio figlio aveva cominciato a bere tantissimo e andare per il break in bagno. Sì. Avevo sospetto che cancellavo spontaneamente mia moglie, non è possibile, il diabete, perché avevamo un figlio di un amico che le fa, diciamo, i sintomi erano simili. Sì. Non è possibile, è l'età della sedenziale, sarà la sete, stasera si è mangiato. E infatti poi purtroppo era diabete veramente. Sì. Una bomba a mano in casa, credo sia stato, in quel momento abbia fatto meno effetto, perché mi ricordo la corsa all'ospedale, aveva la glicemia a 600, rischiava il coma glicemico. Cioè, sì, sono cose serie, certo, un grande spavento, Claudio, però la malattia, anche perché il diabete di tipo 1 irrompe, sì, no? Può irrompere nella vita di un bambino, per fortuna si può curare e tenere sotto controllo. Certo. No, infatti anche i medici stessi ci hanno spiegato che poi non è una malattia, è una patologia. Sì. Bisogna adottare degli stili di vita, e questo mi ha però ecco, Claudio, credo che quando uno guarda in faccia la malattia sia costretto a riflettere e a vedere la vita sotto un'altra luce. Come siete cambiati voi, Claudio, come mamma e papà dopo la diagnosi di malattia? Io cercai di buttare un po' sullo scherzo all'inizio mio figlio, facendo una battuta. Noi siamo di Firenze, perciò tifosi della Fiorentina, dice mio figlio: sai, diventano i diabetici, diventano tutti gioventini. Cioè, ho cercato di spostare sulla battuta. Diciamo, mio figlio ha reagito benissimo. Sì. Devo dire che non riesce a uscire con quelli più piccoli di sé, perché si trova vuoti. Cioè, sembra assurdo. Perché la malattia l'ha fatto maturare subito, vero? Esatto, l'ha reso più grande. Poi io, secondo me, con un papà e una mamma come voi ce la fa bene. Sarà questa malattia sarà per lui un'occasione di crescita. E poi comunque, per fortuna, si tratta di una malattia. Tra l'altro si celebra poi la giornata del diabete proprio la prossima settimana, a cui la ricerca, vero Alberto, ha permesso di fare dei passi molto avanti, e quindi si tiene sotto controllo. Continuate a scriverci 349-238-6666 o a chiamarci all'800-24-0024. Dottoressa Baricco, noi abbiamo sentito Piercarlo Crespi, anche la testimonianza del nostro ascoltatore, e voi di genitori, no? come Piercarlo, ne conoscete tanti, ne aiutate tanti. Allora, vogliamo parlare di come è nato il progetto Casa Oz e in concreto che cosa fate? Sì, intanto ci tengo a dire che Casa Oz nasce proprio dall'esperienza di alcuni di noi che, in quanto genitori, hanno affrontato, come coloro che abbiamo ascoltato prima, episodi di malattia legata ai propri figli, ecco. Da lì in poi è passato, diciamo, il periodo più brutto, il periodo che ci è servito per metabolizzare un po' il vissuto, per prendere distanze dalla propria storia. Abbiamo iniziato a chiederci che cosa potessimo fare per dare un nostro contributo. Noi avevamo avuto storia a lieto fine, quindi questo è già un gran vantaggio, ma ci ha dato un po' di forza per riuscire a restituire qualcosa. E abbiamo iniziato a pensare a quello che poteva mancare nel momento in cui la malattia irrompe nella vita di un bambino, di un ragazzo, e quello che era mancato anche a noi: uno spazio di normalità. A questo proposito ho letto con piacere nel risvolto del libro di Paolo, quando lui parla di la caparbia riconquista di spazi di normalità. Ecco, Casa Oz si inserisce proprio lì, è una casa, come dice il nome, perché è una casa a tutti gli effetti, è una casa diurna. Quindi vive dalle 9 del mattino alle 19 di sera, e vuole essere uno spazio in cui offrire normalità alle famiglie, ai bambini che sono malati e ai fratellini di bambini malati che non hanno direttamente il problema della malattia, ma vengono coinvolti in un meccanismo sicuramente difficile da gestire. È una casa, noi abbiamo pensato fin dall'inizio che il messaggio di Casa Ops venisse rivolto a qualsiasi tipo di patologia, perché ci eravamo accorti nelle nostre storie che alcune patologie erano considerate un po' patologie di nicchia e difficilmente avevano qualcuno che si potesse occupare di loro. A Casa Ops quindi ci sono degli spazi e il luogo che per noi appartiene proprio alla normalità della nostra vita. All'interno di Casa Ops si trovano anche delle persone che ti accolgono, che ti possono guidare nell'utilizzo di certi spazi, che ti possono anche solo far compagnia, però un personale anche professionalmente qualificato perché possa invece intervenire poi in quelli che sono progetti educativi per bambini che hanno malattie molto lunghe, oppure sostegni scolastici a fratellini che non hanno, come dicevo, il problema della malattia, ma hanno sicuramente vivono una situazione di isolamento perché i genitori, certo, come noi abbiamo imparato, sono presi totalmente dalla malattia del proprio figlio. Allora, diamo anche un po' di riferimenti, dove si trova, ce n'è una sola, come si accede a Casa Ops? Sì, Casa Ops per ora esiste a Torino, sì. È nato dall'esperienza di noi che siamo di Torino, noi abbiamo un sito su cui si può avere informazioni che è www.casaops.org. In realtà nei nostri sogni, e spero prima o poi realizzabili, l'idea è quella che Casa Ops possa essere replicata, certo, in altri posti d'Italia, vicino a ospedali pediatrici o in altre realtà dove noi crediamo che un posto di questo tipo possa per fare essere casa, eh? Per fare esatto, casa, dottoressa Baricco. Alberto. Piercarlo, a proposito di fare casa, la sua figura di papà emerge in modo molto molto chiaro leggendo il libro di Paolo, un libro che io ho regalato anche già ad un altro papà dicendo un libro di lacrime, ma anche un libro di sorrisi. Proprio a lei come papà si capisce che lei è così speciale, ma cosa ha significato? Lei è proprio la persona che ha tenuto in mano il timone della nave di questa malattia mentre apparentemente imperversava la tempesta. Quali sono le sfide che come uomo e come papà ha dovuto affrontare? Cosa ha scoperto di sé che probabilmente non conosceva prima di vivere questa esperienza? Ma guardate, in questo prima di avere questo tipo di esperienza si è pensato immediatamente chiaramente di difendere Paolo. Paradossalmente però vi devo dire che la prima cosa che abbiamo dovuto affrontare era la difesa di noi stessi, perché nei primi giorni pensavamo di impazzire, non si dormiva più la notte, ci siamo rivolti a degli psicologi, fortunatamente abbiamo reagito, credo, in modo forse abbiamo fatto la cosa migliore. Quindi una volta praticamente risolto, diciamo, il nostro problema, che era quello inizialmente paradossalmente il più grave, poi ci siamo stretti tutti in cerchio, tutta la famiglia intorno a Paolo, per dare a lui molta, molta forza e rassicurazione. Quindi abbiamo vissuto praticamente tutta l'esperienza della malattia cercando di rassicurarlo, non abbiamo mai pensato in negativo, abbiamo sempre dato delle speranze, le strutture comunque dove ci siamo appoggiati lo permettevano, ambienti speciali, l'Inte di Milano molto, molto accogliente, il Pini di Milano anche quello con medici molto professionali. Fortunatamente abbiamo trovato anche delle persone splendide, ad esempio in camera, ad esempio Antonio Alpini, dove abbiamo passato lunghi periodi di degenza, ridendo, scherzando, sorridendo, pur avendo tutte e due, sia Paolo che Antonio, delle brutte esperienze, tutte e due osteosarcoma, stesso problema, trapianti di ginocchio, trapianti di femore, però in ogni caso abbiamo passato delle giornate tra virgolette allegre, cioè cercando sempre di ridere, sorridere, di drammatizzare quello che era la malattia, pur vedendo magari Paolo senza capelli, cercando praticamente di metterlo in contatto immediatamente con i suoi amici, quindi non fare in modo che praticamente lui potesse da un letto di ospedale poter continuare una vita come quella di tutti i giorni, ad esempio andando a scuola con la videoconferenza. Certo, mi sembra che questo sia stato un impegno che lei e sua moglie avete deciso di affrontare, anche proprio per regalare quella quotidianità della casa a cui la dottoressa Baricco faceva riferimento quando parlava di Casa Ops. Ascoltiamo un altro breve estratto. Quel testone di papà ha cominciato la sua battaglia. Ha spiegato a chi di dovere che internet mi serviva per la videoconferenza con la scuola, per studiare, per non perdere l'anno scolastico, per restare aggrappato all'amicizia dei miei compagni. Mi serviva per evadere da quelle quattro mura di ospedale. La mia casa, mio malgrado. Il giorno dopo, gli stessi tecnici che dicevano fosse impossibile attivare la connessione si sono presentati nella mia stanza. Hanno armeggiato un po' e, come per miracolo, voilà. Ho iniziato a navigare libero e felice nell'immensità di Internet. Queste sono le magie del potere. Grazie a papà, ora posso aggiornare il mio blog anche dall'ospedale, tenere i contatti con gli amici vecchi e nuovi e farmene altri. E non solo. Mamma e Alice le posso vedere anziché sentirle solo al telefono. Eccolo qua, quel guerriero di papà Piercarlo che è riuscito veramente a fare miracoli nel percorso di Paolo. Ma vorrei chiedere alla dottoressa Baricco, a volte voi vedete dei genitori che sono proprio già capaci di combattere, che sanno di dover prendere questa posizione, di tirare fuori da sé forze che non pensavano di avere. Altre volte probabilmente dovete dare voi questa forza ai genitori. Vi capita di trovare mamma e papà che sono ancora quasi più travolti del loro figlio dall'esperienza che stanno vivendo? In questo caso come intervenite? Questo sicuramente sì. Immaginiamoci sempre che Casa Ozzo, come dicevo prima, è una casa e quindi è un posto dove trovare degli amici. Non c'è un intervento strutturato se non dei momenti che stiamo strutturando ora, e che ha fatto la prima esperienza, direi molto felice, di un avvicinamento proprio psicologico, di conforto per gruppi di genitori. Sicuramente quello che lei dice è vero, e diciamo che nel fatto del disorientamento della diagnosi il bambino entra in Casa OZ e viene un po' distratto da quei gesti comuni, no? Coinvolto in attività normali che lo portano un po' distante da quello che ha dovuto ascoltare. I genitori trovano un cuore, una persona, anche i volontari in questo fanno moltissimo, perché sono persone comuni che però si trovano in quei momenti insieme al personale e insieme ad altre mamme, insieme ad altri genitori, perché questo vuol dire molto, la condivisione, il capire di non essere soli, di avere delle orecchie pronte all'ascolto e che possono darti una spalla, ecco, un conforto. E questa è una storia che si inizia a scrivere giorno dopo giorno. Calcoliamo che molte delle famiglie che vengono a Casa OZ sono famiglie che, oltre a quello che abbiamo dovuto passare noi di disorientamento, di difficoltà, noi avevamo almeno la nostra famiglia vicino, che in questi momenti fa sì, cerchio, no? Invece tante volte vuol dire proprio lasciare la famiglia per questi viaggi, esatto, in cerca di cura anche dalle proprie origini, dalla propria cultura, da tutti i propri amici, e quindi voler ricercare un luogo come diceva papà di Paolo. È vero, nelle strutture ospedaliere fortunatamente si trovano persone, medici, infermieri, che tante volte sanno stare vicino veramente in modo prezioso. Casa OZ fa qualcosa fuori e quindi vuole essere anche quella famiglia, quell'amicizia, quell'accoglienza che tante volte insomma dà un po' di forza, spesso dà un po' di forza ed è così prezioso. Insomma, tra queste due situazioni notiamo questo denominatore comune di fare rete, di cercare di ritornare alla quotidianità, che poi tante volte noi sentiamo come pesante quando la vita procede senza ostacoli, e che poi invece vediamo essere davvero una carica di energia profonda. Prima di dare la parola a Stefano, che ci chiama da Verona, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro che si intitola La magica Cleme e l'ospedale delle meraviglie. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it. Mi raccomando, titolo del libro, La magica Cleme e l'ospedale delle meraviglie, i vostri recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Eccoci a lei, caro Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti. Allora, niente, io volevo esporre la mia situazione che ho vissuto in questi anni. Noi siamo, io e mia moglie, genitori di una coppia di gemelli di 11 anni. Sì. Alla nascita prematuri, erano tre, abbiamo perso una bambina, e il maschietto Cristiano ha subito una lesione cerebrale. Quando ce l'hanno detto, mentre ricoverate prematuri, una depressione incredibile. Anche perché non ci dicevano e non sapevano dirci i problemi che avrebbe potuto avere crescendo. La nostra vita è cambiata in che modo? Perché la moglie è rimasta a casa da lavoro per accudire Cristiano, per fargli la ginnastica, per fare l'educazione. Certo. E voleva essere questa una, un applauso a mia moglie e a tutte le mamme. Eh sì, grazie e, Stefano, è vero. Adesso Cristiano ha 11 anni. Sì. È un bambino che ha recuperato tantissimo. Noi siamo consapevoli che non potrà mai recuperare la parte sinistra al 100%, però è un bambino che fa quasi tutto quello che fanno gli altri. Quello che io, come ho detto alla signorina al telefono, volevo esporre in maniera velocissima, è veramente la tristezza che ho io e che ha mia moglie. Sì. Nel vedere di essere trattati, quando si va in commissione, io la legge 104 per la revisione, come fossimo lì per fare delle richieste che ci concedono per grazia ricevuta. Io ho perso l'assegno di frequenza per Cristiano quando faceva ginnastica e fa tuttora, perché nessuno mi ha detto che ne avevo diritto. Adesso, dopo l'ultimo litigio che ho fatto, sì, mi hanno dato la revisione fino alla maggiore età. Altrimenti ogni anno, e ci andavo io perché mia moglie non se la sentiva, era una, guardi, depressione, sì, davanti a queste 5-6 persone che ti trattano come se ti regalassero qualcosa. Io ne avrei fatto a meno. L'INPS per una firma mi ha bloccato adesso l'assegno di frequenza. 6 mesi ci vorranno perché passi da un ufficio all'altro prima che l'INPS mi ritorni a dare la quindi frequenza. Quindi veramente una vita difficile, Stefano, in cui sì, Alberto, proprio dal messaggio di Stefano emerge questa rabbia, questa solitudine. Credo che sia il percorso poi di tanti genitori. Stiamo proprio ragionando su qualcosa che rompe all'improvviso come un fulmine a ciel sereno nella vita di famiglia, quindi c'è proprio la gestione acuta, cioè dove stare sul problema, cercare soluzioni, e contemporaneamente poi c'è tutta la parte di entrare in un sistema, in una serie di servizi, dover trovare risposte ai propri bisogni frequentando dei mondi che per noi sono completamente sconosciuti. Chiederei sia a Piercarlo che prima, alla dottoressa che Baricco, alla dottoressa Baricco, se per voi addentrarvi proprio nel sistema della cura, dell'assistenza, della richiesta di aiuto è stato molto faticoso, e che esperienza avete vissuto. E a Enrica chiederei poi di dirci cosa fa Casa Ozzo in questo senso. Sì. Piercarlo. Io devo dire che tutto sommato noi abbiamo vissuto praticamente delle esperienze abbastanza positive, quindi noi fortunatamente non abbiamo avuto le difficoltà che ha avuto il signore che ha espresso prima tutta la sua rabbia, ma è comprensibile, perché quando ti trovi, abbiamo avuto semplicemente qualche piccolo problema, diciamo tra virgolette, con la scuola, ma risolto con qualche affabbiatura di troppo, quindi forzando molto siamo riusciti comunque a risolvere quei piccoli inghippi, quei piccoli intoppi burocratici che molte volte per mancanza di buon senso. Sì, il caso di Stefano è diverso da quello di Piercarlo. Esatto, esattamente. Però devo dire che fortunatamente per noi è stato abbastanza positivo, quindi abbiamo avuto, diciamo, molta positività, quindi non posso dire che da questo punto di certo vista di aver avuto delle questa grosse è la, è la storia di Piercarlo. Ma io chiederei alla dottoressa Baricco se tra i progetti magari futuri di Casa Ozzo c'è quello proprio di accompagnare, anche di sostenere, sorreggere, indicare le famiglie in questo percorso difficile come quello che ci raccontava Stefano, in cui c'è grande amarezza. Stefano ci raccontava una grande amarezza, no? Dice: le avrei fatto a meno, ecco, mia moglie non andava, ci sentivamo in qualche modo, no, trattati male. E così, direi che fin dall'inizio del progetto di Casa Ozzo ci siamo posti questo problema, perché invece nel nostro caso moltissime delle famiglie che arrivano in casa sono famiglie che hanno la difficoltà di affrontare proprio un desiderio burocratico. Come diceva Stefano, il più delle volte si tratta anche di abbandono di un lavoro da parte, il più delle volte, della madre, perché è quella che deve stare più vicina al figlio. Per cui da noi, all'interno del personale qualificato di cui accennavo già prima, abbiamo voluto la presenza di un assistente sociale che affianchi i propri genitori in questo orientamento rispetto ai diritti, agli aiuti che uno può avere e che molte volte fa fatica, con cui fa fatica ad entrare in contatto. Ecco. Abbiamo in progetto di incrementare ulteriormente questo appoggio anche attraverso l'ausilio, come dicevo prima, di volontari che possano affiancare proprio le persone anche nell'andare a svolgere la pratica di un tipo. Sì, proprio essere accompagnati. Esattamente. Perché è un momento difficile. Già andare in giro per uffici e per burocrazia è impegnativo. Ancora con un peso nel cuore diventa ancora più difficile. Andrei a Letizia che ci chiama da Prato. Buongiorno Letizia, benvenuta. Buongiorno, ho telefonato per proporvi la mia esperienza. Io sono un'insegnante, sì? E quest'anno mi è capitato per la prima volta dopo 22 anni di servizio di accogliere in classe un bambino diabetico. Mm. E all'inizio eravamo molto spaventati. Perché? Perché era un'esperienza completamente nuova e noi eravamo a digiuno relativamente a questa questione. Mm. E poi invece si è rivelata un'esperienza fantastica e per la maturità del bambino che aiuta noi a gestire nell'arco della giornata i suoi cambiamenti di glicemia. Sì. E per quanto riguarda i genitori che talvolta ansiosi devono essere da noi rassicurati e talvolta devono rassicurare la nostra ansia verso questa novità. Mm. Comunque è un'esperienza arricchente e quindi volevo tranquillizzare gli altri miei colleghi che talvolta dinanzi a questa novità possono... Non parlerei del diabete di tipo 1 proprio come una novità, ma qua abbiamo anche Alberto Pellai che è un medico. Io avendo fatto tante puntate sul diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2, o anche con tanti pazienti, sappiamo certo, che... Certo, però credo che Letizia ci stia dicendo che se tu come professionista, in questo caso come insegnante, non hai mai fatto un'esperienza di un bambino diabetico, effettivamente come maestra anche devi essere presa per mano. E credo anche che nel libro di Paolo Crespi ci sia questa cosa, cioè anche la scuola, che è così fondamentale per accompagnare un bambino ammalato nel suo percorso di guarigione, anche la scuola deve proprio imparare un po' a saper interagire, a saper gestire questa novità, l'arrivo di una malattia che è così impattante su tutto il gruppo quindi allargato. Quindi benvengano le campagne educative e tutto l'impegno nel coltivare ed educare tutti, dai genitori ai pazienti, agli operatori. Credo che poi un messaggio importante sia che questi bambini portano con la loro storia una grande risorsa dentro alla classe, lo si intuisce tantissimo nel libro di Paolo, sono davvero delle risorse straordinarie. E a questo proposito, proprio prima di salutarci, abbiamo un minuto, potremmo ascoltare molto velocemente un altro breve estratto dal libro di Paolo. Non ce l'ha se lo vogliamo leggere noi. Ok, quando Paolo dà qualche consiglio, per esempio consigli per affrontare la chemio, lui ne mette 5 nel suo libro. Uno è questo: nessuna paura, mamma, papà e chi ti vuole bene saranno sempre con te e ti proteggeranno. Ne dà un altro: abbi fiducia nei dottori, loro sanno sempre quello che fanno. E ultimo consiglio, ne abbiamo saltati 2: anche se sei giù, dentro di te c'è di sicuro una parte solare, mettiti in contatto con lei e cerca di sorridere alla malattia. Allora ringraziamo Piercarlo Crespi per essere stato con noi, grazie davvero per aver condiviso con noi, per averci fatto un po' ci ha commosso, ma comunque il suo è un racconto pieno di luce. Vorrei ricordare, se è possibile, visto che il libro, parte del ricavato viene devoluto all'AIRC, se è possibile praticamente devolvere in questi giorni, ci sono praticamente i numeri sulla RAI. Certo, per poter, noi diamo il sito anche dell'AIRC, l'abbiamo fatto ieri anche in Essere Benessere, giornata nazionale per la ricerca sul cancro, quindi andate sul sito dell'AIRC, sostenete la ricerca perché fa cose straordinarie, no? In fondo la dimostrazione di Piercarlo Crespi e del suo libro è questa. Grazie anche alla dottoressa Baricco di Casa Oz. Grazie a voi. Vi ricordo il sito di Casa Oz, www.casaoz.org. Vi saluto, a lunedì, buona giornata.